La mattina dopo mio zio è entrato nella mia stanza di buon'ora, mentre ero ancora assopita. Cara Florita, mi ha detto, vi chiedo scusa per venirvi a disturbare così presto. Come state? Avete riposato bene? No, zio, ho un'agitazione febbrile che mi impedisce di prendere sonno. Il mio mal di testa non mi abbandona mai e mi sento molto debole. Non mi stupisco affatto, voi non mangiate nulla. Credete che sia con delle arance, del caffè e un po' di latte che vi rimetterete dalle dure fatiche del vostro lungo viaggio? Né Joachina né io siamo a contrariarvi, ma soffriamo del modo in cui trattate voi stessa. Carmen ha ragione a chiamarvi fiore dell'aria. In effetti, voi somigliate molto a questa pianta che vive solo di aria. Zio, io ho vissuto tutta la vita nello stesso modo e sono sempre stata bene. Credo che la mia malattia sia dovuta all'aria del vulcano e voi, zio, sembrate preoccupato e sofferente. Siete anche voi ammalato? No, figlia mia, ma neanch'io ho dormito, a causa dei recenti avvenimenti che mi hanno sconvolto. Ho riflettuto su quello che mi avete detto e temo che 2.000 piastre non siano abbastanza, ma 4.000 sono una somma enorme. Sì, certo, ma Althaus mi ha detto ieri che questo denaro è solo a titolo di prestito. Ah, anche loro fanno uso di paroloni. Lo chiamano prestito, furfanti e svergognati. Anche Bolivar chiamava prestiti le sue esazioni. Chi si è mai sognato di restituirmi le 25.000 piastre che l'illustre Libertador mi ha preso quando è venuto qui? Anche il generale Sucre prendeva i nostri soldi a titolo di prestito, ma non ho mai rivisto le 10.000 piastre che si era fatto dare. Ah, Florita, simili impudenze mi fanno uscire di senno. Venire a mano armata a derubare la gente in casa propria e aggiungere al danno la beffa facendo registrare come prestiti le somme rubate. È il massimo della sfrontatezza. Zio, che ore sono? Le 8, ebbene, vi consiglio di andare perché so che alle 10 sarà resa pubblica l'ordinanza della città che impone ai proprietari di versare i soldi. Davvero? Oh, allora non ho tempo da perdere, mi decido per 4.000 piastre. In questo modo, pensavo, per un provvidenziale equilibrio, il denaro rifiutato a me per iniquità veniva sottratto con la violenza. Se credessi nella vendetta divina ne vedrei qui un esempio. Don Pio veniva colpito in quello che aveva di più caro, come se Dio avesse voluto che la sua ingiustizia fosse a sua volta vittima di altra ingiustizia. Lo zio è tornato tutto contento. Florita, ho fatto bene a seguire i vostri consigli. Pensate che quei bricconi avevano già preparato una lista. Il generale mi ha ricevuto molto bene, ma quel Baldivia sembrava aver indovinato il motivo che mi aveva spinto ad andare da lui. Il suo sguardo sembrava dire: voi ci portate il denaro per paura che noi ve ne chiediamo di più, ma non ci guadagnerete nulla. Per fortuna io sono furbo quanto lui. Alle 10 è stato reso pubblico il bando, in tutta la mia vita non avevo mai sentito un simile rumore. Althaus mi è venuto vicino ridendo come un pazzo. Come siete fortunata a non avere soldi, cugina. Oggi i possidenti hanno un aspetto da far pietà e mi dispiacerebbe vedere anche voi che siete così graziosa con il volto corrugato. Sono stato nominato capo di stato maggiore del generalissimo Nieto, cosa che mi rende 800 piastre di stipendio. Il caro dottor Baldivi aveva segnato sul bando il nome di Manuela Flores d'Althaus accanto alla modica somma di 800 piastre da versare come contributo. Ma poiché in questi tempi fortunati tutto si fa in nome del potere militare, il suddetto bando è arrivato sul mio tavolo e prima di firmarlo ho avuto la buona idea di leggere i nomi delle vittime taglieggiate. Giunto a quello della mia illustre sposa, l'ho cancellato senza tante cerimonie. Poi sono andato dal generale e gridando a squarciagola gli ho detto che trovavo sorprendente che sul bando ci fosse il nome di mia moglie tassata per 800 piastre, mentre né la sua né quelle degli altri membri del governo supremo figuravano per un solo reale. Alla replica di Messer Baldivia che la nipote di Don Pio, l'ho interrotto con veemenza dicendo che non si doveva vedere la nipote di Don Pio, ma solo la moglie del capo di Stato Maggiore Althaus. Se i lupi cominciavano a mangiarsi tra loro, allora al diavolo avrei gettato via la mia pelle e sarei andato a ululare in un'altra tana. Pronunciando queste parole, ho battuto a terra la sciabola e ho fatto riecheggiare gli speroni con tale forza che il monaco ha preso la penna per cancellare il nome di mia moglie. Trovandolo già soppresso, ha contratto le labbra e impallidito, cercando di capire con lo sguardo dove attingessi la mia sicurezza. Come a Waterloo, io ero immobile come una roccia e guardandolo in faccia gli ho detto: amico, in questo affare ognuno di noi ha il suo incarico. Voi avete quello di preparare i bandi che storceranno soldi ai borghesi, io ho quello di farli eseguire. Penso che in questa circostanza la mia sciabola sarà utile quanto la vostra penna. L'amico ha capito e vi assicuro, Florita, che la mia uscita soldatesca, come la chiamereste voi, ha sortito il suo effetto. Verso mezzogiorno è arrivata mia cugina Carmen con un'espressione gioiosa. Florita, sono venuta a prendervi, alzatevi, cara. Bisogna assolutamente che veniate a sedervi alla finestra del salotto per godervi con me lo spettacolo offerto da Via Santo Domingo. Sono avvenimenti di cui potrete parlare nel vostro diario. Ho già annotato per voi i due più divertenti. Avvolgetevi nel vostro mantello e copritevi la testa con il grande velo nero. Io metterò dei tappeti e dei cuscini sul davanzale della finestra. Starete come sul vostro letto e ci divertiremo come delle regine. Ma cosa accade dunque, cugina, in via Santo Domingo? Cosa accade? Ah, lo spettacolo più divertente che si possa immaginare. Vedrete passare tutti i proprietari con dei sacchi pieni di soldi sotto il braccio. Pallidi accigliati come se andassero all'auto da fè. Venite presto, Florita. In questo momento ci stiamo perdendo parecchio. Trascinata dalla sua insistenza, mi sono accomodata alla finestra. Carmen aveva ragione. Le cose da vedere offrivano lo spunto per interessanti osservazioni. Mia cugina era pervasa da quella cupa malignità comune agli esseri che non osano mettersi apertamente in contrasto con la società di cui sono state vittime e che colgono tutte le occasioni per vendicarsene. Così si rivolgeva a tutti quelli che passavano davanti a noi, divertendosi a girare il coltello nella piaga. Come siete carico, signor Gamio? Dove portate questi grossi sacchi di piastre? Ce ne sono abbastanza per comprare una piccola fattoria, una piccola chacra a ognuna delle vostre figlie. Non sapete dunque, Donna Carmen, che hanno avuto l'iniquità di impormi il pagamento di 6.000 piastre? Davvero, signor Gamio, ma è spaventoso! Oh, un padre di famiglia come voi, un uomo così per bene ed economo, che si priva del necessario per avere le borse piene di quattrini, è un'ingiustizia terribile. Voi sapete di cosa mi sono privato per accumulare. Ebbene, ecco il frutto delle mie economie che sparisce d'un sol colpo. Mi tolgono tutto. Don José, se almeno questi soldi vi dispensassero dal versarne degli altri. Oh, pensate che me ne prenderanno ancora? Ah, Don José, viviamo in tempi in cui le persone oneste non hanno la libertà di parlare. Bisogna raccomandare l'anima alla Santa Vergine e pregare per gli sfortunati che hanno i soldi. Il signor Gamio, tremante di paura e con le lacrime agli occhi, si è allontanato dalla finestra di Carmen con la disperazione nel cuore. Dopo di lui è passato il signor Ugarte, uomo ricco quanto mio zio, ma molto più avaro. In tempi normali, Ugarte andava in giro con delle calze blu da lavoratore, delle scarpe bucate e un vestito tutto rattoppato. Quel giorno, inasprito dal dolore causatogli dall'avarizia, forse il peggiore dei dolori, e credendo di mascherare in questo modo le sue ricchezze, indossava quello che aveva di più logoro. Coperto di stracci di tutti i colori, aveva un aspetto grottesco. Vedendolo, non ho potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Ho nascosto il viso dietro al velo mentre mia cugina, più abituata di me a dominare le emozioni, faceva parlare quel povero ricco che sembrava un mendicante che invece possedeva una fortuna di 5 o 6 milioni. Perché, signor Don Ugarte, vi sfiancate a portare dei sacchi così pesanti? Non avete un nero o un asino che possa sollevarvi da questa fatica? Ma che cosa dite, Donna Carmen? Affidare a un nero dei sacchi pieni di soldi? Datemi una mano ad appoggiarli sulla vostra finestra. Dentro ci sono 10.000 piastre e quasi tutte d'oro. Oh, signor, capisco che sia difficile rinunciare a queste belle once che riposavano tranquille in fondo a qualche cantina per darle a delle persone che le faranno circolare. Darle? Ah, dite piuttosto che me le rubano, perché com'è vero che la Vergine è in cielo con il suo santissimo figlio, se non fosse che mi hanno minacciato di mettermi in prigione e che durante la mia prigionia mia moglie potrebbe rubarmi tutti i soldi, mi sarei dato fuoco, piuttosto che pagare un solo maravedì. I miei poveri soldi sono la mia sola consolazione e loro me li prendono. Nel parossismo del suo dolore, quell'insensato si è messo a piangere, contemplando i propri sacchi come avrebbe fatto una madre davanti al figlio morto. Mia cugina è rientrata in salotto per ridere a suo piacimento. A me invece quel disgraziato ispirava un senso di pietà. Lo credevo vittima di una forma di alienazione mentale e la demenza suscita tutto il mio interesse e la mia compassione. Ma ben presto non ho visto più in lui che il vile schiavo dell'oro, l'uomo senza cuore, crudele verso i suoi simili, isolato da tutto, estraneo agli affetti più cari. E ho provato un profondo disprezzo per questo miserabile che con una ricchezza di 6 milioni andava vestito di stracci sporchi. Ah. La guerra civile, pensavo, rientra nei disegni della provvidenza. Le estorsioni del governo militare avranno almeno come risultato immediato di far circolare la moneta, la cui unica utilità è nella circolazione, in attesa che un bisogno unanime di ordine e di sicurezza, portino all'insediamento di un governo protezionistico. Mia cugina, che era tornata alla finestra, ha offerto un sigaro a Ugarte, sapendo che era il modo migliore per farlo tornare in sé. Ugarte non offriva mai sigari ad alcuno, anzi dimenticava sempre i propri per farseli regalare dagli altri. Ogni sigaro era un maravedì risparmiato. Prendete, signor Don Ugarte, ecco un bel sigaro Havana di contrabbando, costa 2 soldi. Oh, grazie, signora, mi fate proprio un bel regalo. È per me una vera gioia fumare un buon sigaro, ma vi renderete conto che non posso pagare questo prezzo? Signor, con un quarto di uno di questi sacchi si potrebbe comprare dei sigari Havana grandi come le torri di Santo Domingo, ma dopo questa spoliazione eccovi privato di buoni sigari per il resto della vita. Oh, la cosa più terribile, Donna Carmen, è vedere l'ingiustizia con cui mi trattano, imporre 10.000 piastre a un povero uomo come me, che non ha neanche un vestito da mettersi. I nemici dicono che sono ricco. Ah, ricco io, Santa Vergine, per quelle 2 o 3 proprietà che mi costano più di quello che rendono. Lo sanno tutti che negli ultimi 6 anni non ho ricevuto neanche una piastra dai miei fattori. Il poco denaro contante che avevo l'ho prestato a delle persone che non me lo restituiscono. Sono ridotto al punto che spesso mia moglie non ha i soldi per andare a fare la spesa. Eppure, signor, da stamattina alle 10 e adesso è solo mezzogiorno, in qualche cantuccio voi avete trovato tutti questi sacchi pieni d'oro. Il povero folle ha guardato mia cugina con aria spaventata. Chi l'ha detto? Beh, sapete bene che si è al corrente di tutto in questo paese. Si arriva perfino a dire che in cantina voi avete una botte piena d'oro. Oh, santa Vergine, che cattiveria, che calunnia! I miei nemici dicono che ho un barile pieno d'oro. Oh, non ci si può proprio credere. Ma voi, Donna Carmen, non vi presterete fede, vero? Sono delle infami menzogne. San Giuseppe, mi faranno uscire di senno. L'insensato si è ricaricato i sacchi sulle spalle e la sua faccia ha assunto ancora di più l'espressione di cupa follia. I suoi muscoli si sono contratti, il corpo tremava tutto e si vedeva che soffriva terribilmente. Chino sotto il peso del suo oro, questo mendicante si è allontanato con la fretta che gli permetteva il suo fardello. Carmen, siete molto cattiva. Perdere un uomo simile, che basta da solo a disonorare la città in cui è nato, non sarebbe un gran danno per il paese. Non è odioso vedere un milionario come lui, che ha accumulato ricchezze per tutta la vita senza mai goderne, che ha privato del lavoro i più sfortunati, coperto di miseri stracci. In città vi sono 5 o 6 individui enormemente ricchi, che fanno a gara chi è più spilorcio. Sono sanguisughe che risucchiano senza sosta l'oro e l'argento della società senza mai restituirle niente. L'indignazione di Carmen era fondata. Nei paesi in cui il denaro è un veicolo di lavoro e le banche lo mettono a disposizione di chi ha iniziativa attraverso l'uso di carta moneta, l'avaro è uno sciocco che tutti deridono. Ma nei paesi arretrati, dove l'oro conserva tutto il suo potere, l'avaro è un nemico pubblico che blocca la circolazione della moneta e rende il lavoro oneroso e impossibile per le sue esigenze esorbitanti. Non c'è da stupirsi dunque se le masse sfruttate dalla cupidigia di pochi accettano con gioia e appoggiano con tutte le loro forze le estorsioni del potere, si vendicano così di quelle che devono subire tutti i giorni. L'invenzione moderna che ha dato più risultati dopo la stampa è stata quella della carta moneta. Essa ha posto un freno al potere dell'oro, facendogli concorrenza e ha reso possibile ai lavoratori abili e costanti di acquisire ricchezza. In una parola, ha posto fine all'usura e allo sfruttamento dell'intelligenza. Nei paesi in cui non si farà in modo che con un sistema di credito pubblico si aiuti con il denaro o con il simbolo che lo rappresenta allo sviluppo del lavoro, i ricchi saranno odiati dal popolo come lo erano al tempo dei romani o come lo erano gli ebrei nel Medioevo, e in ogni occasione il popolo si mostrerà disposto a dare il proprio appoggio al potere che lo rapinerà. Avevamo appena finito di fare queste riflessioni provocate dall'avarizia di Ugarte quando si è avvicinato Don Juan de Goyeneche. Era distrutto e temevo di vederlo cadere da un momento all'altro. Carmen lo ha invitato a entrare. Sto andando a cercare Don Pio e spero che potrà prestarmi dei soldi, altrimenti Dio solo sa cosa succederà alla nostra famiglia. Sapete che questa gente, Doña Carmen, oh, non c'è pericolo che qualcuno ci senta. Andate alla finestra a vedere se nessuno ci ascolta. Sapete che hanno avuto l'impudenza di imporre al nostro venerabile fratello, il vescovo, 20.000 piastre di imposte. Mia sorella è stata tassata per 5.000, io per 6.000. La nostra ricchezza è stata decurtata di 31.000 piastre in un colpo solo. Florita, non so che cosa darei per essere al posto di nostro fratello Mariano. Lui vive tranquillo a Bordeaux e si gode le sue ricchezze. Oh, mi sono pentito da tempo di aver acquistato i beni che possedeva qui e da quando c'è questa rivoluzione deploro più che mai la stoltezza di essermi legato a questo paese. Don Juan, ha detto mia cugina, appena questa bufera si calmerà, voi tornerete a essere re. Vostro padre è primo per la sua dignità, voi lo siete per le vostre ricchezze. In Francia, dove le grandi proprietà sono talmente numerose da non permettere di distinguerle, avreste la stessa posizione eminente? Ah, Doña Carmen, il vantaggio di essere qualcuno in un paese di rivoluzioni si paga troppo caro perché non si preferisca l'oscurità al privilegio di una simile distinzione. Pensate a quello che ci costa l'ascesa al potere di ogni nuovo governo. Il Libertador Bolivar ha sottratto alla nostra famiglia 40.000 piastre, il generale Sucre 30.000, San Martín tutto quello che mio padre possedeva a Lima. Adesso Nieto e Valdivia si sono impegnati a incasellarci di nuovo per depredarci. Caro cugino, ci vuole un po' di filosofia. Dalla ruota della fortuna escono sia i biglietti vincenti che i perdenti e non si possono sempre pescare i primi. Quando vostro padre è venuto in questo paese non aveva nulla e ha accumulato enormi ricchezze. Si dice che vostro fratello, Don Emmanuel, oggi conte di Guachi, possiede una ventina di milioni, tutti provenienti dal Perù. Credete veramente, Don Juan, che se vostro padre fosse rimasto in Biscaglia, i vostri fratelli sarebbero uno vescovo e l'altro grande di Spagna? Ho interrotto la perfida Carmen che si divertiva a torturare quest'altro Ugarte. Cugino, gli ho detto, questi soldi vi saranno resi. Lo zio Pio ne è convinto, tanto che sarebbe disposto a prestare a questo governo tutto quello che vuole. Vedendo che non poteva aspettarsi alcuna consolazione da Carmen, che lo detestava, si è alzato per andarsene. Era evidente che Carmen provava una gioia segreta a vendicarsi di quei taccagni che avevano criticato il suo modo di vivere, pur accettando i suoi sigari da due soldi, le sue cene e le sue feste. Carmen insisteva per farmi tornare alla finestra, ma io resistevo alla sua ostinazione perché lo spettacolo dell'avarizia alle prese con l'oppressione mi ripugnava, in quanto mi mostrava all'umanità sotto un aspetto troppo spregevole. Florita, venite almeno a vedere il vecchio Hurtado che ha caricato stoicamente le sue 6.000 piastre su di un asino. È un vero filosofo, vediamo che cosa ci racconta. Mi sono lasciata vincere dalla curiosità di sapere che cosa pensasse il vecchio filosofo nello sborsare le sue piastre. Bravo, nonno Hurtado, almeno voi non vi affaticate a portare i sacchi sulle spalle. Carmen, Carmen, il filosofo deve piegarsi solo sotto il peso della saggezza. Il mio asino è nato per portare dei carichi e non vedo perché l'oro e l'argento debbano fare eccezione ed essere trasportati dall'uomo. Mentre il ferro, il rame e il piombo, che sono metalli molto più utili, debbano essere portati dalle bestie da soma. Caro vicino, vedo che voi, che possedete una tomba, ossia, come si dice in Perù, delle persone che hanno un patrimonio di cui non si conosce l'origine, si dice che possiedono una tomba, perché gli antichi peruviani venivano sepolti con i loro tesori e perché al momento della conquista spagnola essi hanno nascosto i propri beni nelle loro tombe. Accondiscendete dunque, caro vicino, di buon grado a pagare, mentre quelli come Don Pio, Juan de Goyeneche, Ugarte e Gamio più sfortunati non si rassegnano altrettanto facilmente. È vero, Carmen, io possiedo una tomba ed è la mia saggezza che è più inesauribile della più ricca tomba inca. La saggezza è una cosa preziosa, ne convengo, ma per quanto mi riguarda, potrei essere assennata quanto uno dei saggi greci e latini di cui non conosco i nomi, senza che questo aggiunga un'oncia in più nelle mie tasche. Se questo è quello che credete, figliola, siete in errore. Non urtado, voi mi fate nuovamente andare in collera, come accade ogni volta che parlo con voi. Non vorrete spingervi a dire che è stata la vostra saggezza a consentirvi di comprare le 7 o 8 case che possedete in città, i vostri bei terreni, il grande zuccherificio che è con la vostra saggezza che avete allevato i figli, li avete fatti istruire, avete dato una dote alle figlie, che è con la saggezza che mantenete nel lusso vostra figlia suora Santa Catalina. Fate offerte ai conventi, costruite la chiesa del villaggio dove possedete la terra. Su, lasciateci in pace con la vostra saggezza. A queste condizioni sarebbero tutti saggi per Cristo. Lo sarebbero se tutti avessero avuto in dono la disposizione alla saggezza. Ma vedo con chiarezza che non è così. Non trovo alcun saggio, vedo solo degli stolti. Addio, vicina. Cara Florita, vedo che state meglio. Venite a trovarmi, ho molte cose da farvi vedere nel mio studio. Voi avete tutto ciò che occorre per raggiungere la saggezza. Ecco perché mi piace tanto parlare con voi. E si è allontanato. Che tu possa andare in rovina con tutta la tua saggezza, vecchio scemo! Gli ha gridato Carmen. Ogni volta che questo vecchio indio parla mi fa venire la pelle d'oca. Possiede una tomba, ne sono sicura quanto di avere in mano questo sigaro, e vi attinge da 60 o 70 anni, dato che questo sambo è sopravvissuto ai più vecchi. Il suo tesoro gli fornisce di che costruire delle case e delle chiese, di scavare dei canali nelle sue terre. Per la figlia suora compra gli oggetti più cari portati dalle navi europee, e da vecchio ipocrita ha l'impudenza di venirmi a predicare la saggezza. A me che da 20 anni sopporto con filosofia ogni sorta di privazioni e non ho neanche i soldi per comprarmi un paio di calze di seta, Florita, queste cose mi rivoltano. Mi dispiace che non abbiate preso la parola per dimostrargli che non siete la sua vittima ingenua. Quando si possiedono i tesori di una tomba e si va a fare mostra di saggezza davanti a chi non ha soldi, si è male accetti. Ad Arequipa sono tutti convinti che il vecchio Hurtado abbia trovato una tomba che alimenta le sue enormi spese. Io invece credo che, come il vecchio di La Fontaine, egli abbia scoperto il suo tesoro nel lavoro o, come dice lui, nella saggezza. Infatti, il lavoro intelligente è la migliore saggezza dell'uomo. Questo vegliardo venerabile è economo senza essere avaro, è molto laborioso e possiede delle conoscenze pratiche molto vaste e superiori a quelle degli altri abitanti del paese. Ha lavorato tutta la vita e ha portato a buon fine tutte le sue imprese. Mi sembra che l'origine della sua ricchezza si possa spiegare in questo modo, senza bisogno di ricorrere alla scoperta miracolosa di una tomba. Inoltre si dovrebbe essere contenti che il destino lo abbia favorito perché fa un uso nobile delle sue ricchezze. Ma spesso si è gelosi degli uomini di intelligenza superiore e quando non li si può calunniare, beh, si preferisce attribuire i loro successi a un miracolo. Dopo gli ultimi avvenimenti, la città aveva completamente cambiato aspetto. Da calma, monotona e mortalmente noiosa come era prima della rivoluzione, era ora straordinariamente convulsa e tremendamente chiassosa. Il governo di Orbegoso era costretto a usare i soldi ricevuti dai proprietari per mettere in piedi un esercito abbastanza forte da resistere a quello di Bermudez. Ero al corrente di quello che succedeva al quartier generale perché con la sua franchezza e il bisogno di ridicolizzare i capi, Althaus mi informava degli avvenimenti fin nei più piccoli dettagli. La presunzione, l'incapacità, l'incuria di quegli uomini erano superiori a ogni immaginazione. Quello che non sapeva Althaus me lo riferiva Emanuel, così che io ero la persona più informata del paese. Se le capacità di Nieto e di Baldivia fossero state all'altezza della loro posizione politica, con le somme estorte ai fortunati possidenti, essi avrebbero potuto mettere ordine nell'economia e nelle attività sociali e soddisfare tutte le necessità del momento, ma Beh, il denaro ottenuto senza fatica si spreca facilmente e non c'erano sbagli o stravaganze che i due uomini non commettessero. Non appena arrivava una nave da Islay, il generale faceva chiedere con enfasi quali armi o munizioni portasse e dava ordine di acquistare le sciabole, i fucili, la polvere, le pallottole, insieme ai tessuti che c'erano a bordo. Si può ben immaginare che procedendo in questo modo le casse furono ben presto vuote. Baldivia era altrettanto dissennato e, tenendo ben presenti i suoi interessi personali, aveva fondato un giornale la cui pubblicazione era molto costosa e di cui era il redattore capo, con uno stipendio di 1.000 piastre al mese più un compenso per ogni articolo scritto. Un mese dopo l'uscita del bando, un giorno Altaus è entrato nella mia stanza ridendo e non riuscendo quasi a parlare. Che cosa provoca la vostra ilarità, cugino? Un altro sproposito del generale, immagino. Raccontatemelo subito, così anch'io posso ridere con voi. Questa mattina il nostro amabile previdente generale mi ha mandato a dire di mettere ordine in quello che lui chiama il suo grande magazzino, vale a dire la cappella della prigione. Allora ho preso due uomini e sono andato in quel santuario dove fino a quel momento mi era stato proibito di entrare. E non era senza motivo che me lo avevano tenuto segreto. Indovinate che cosa vi ho trovato? Non so. Delle sciabole, dei fucili? Sì, delle sciabole, non immaginate quante! 2.800, appena acquistate! Ma sfido Nieto a trovare più di 700-800 uomini ai suoi ordini. Vi sono anche 1.800 fucili, e che fucili! Non c'è pericolo che uccidano i propri fratelli con quei fucili fabbricati a Birmingham. Costano solo 22 franchi e sono della buona merce inglese, levigate a buon mercato. Ma un semplice palo sarebbe più pericoloso di 10 di essi. Le sciabole poi sono degli strumenti ideali per tagliare le rape, per non parlare delle pile di tessuto blu, il colore dei granatieri francesi e delle migliaia di cinturoni e di budrieri che ho visto in un angolo senza che abbia scorto una sola giberna. Che il diavolo mi porti, ma si direbbe che dei piccioni viaggiatori abbiano portato la notizia della rivoluzione di Lima a quei buffoni di capitani inglesi e francesi che hanno appestato il Perù con questi avanzi di magazzino. E pensate che le armi siano state sistemate in modo da garantirne la conservazione e i fucili in modo che non arrugginiscano? Proprio per niente. Nella vecchia cappella entra acqua da tutte le parti e gli oggetti sono ammassati alla rinfusa, gettati come fasci di fieno. Ma non ha importanza, perché bagnati o no, i cani di quei fucili non abbaieranno mai. Allora, bravi borghesi di Arequipa, dovete essere contenti se vi hanno preso i soldi, perché avete almeno la soddisfazione di vederli spesi bene. Ecco un grande magazzino dove ci sono più sciabole che soldati per usarle, ci sono mucchi di tessuto blu senza i sarti per farne abiti e grandi quantità di budrieri. Quanto alle giberne, il capitano le ha vendute a Santa Cruz. È meraviglioso! Quando descriverete in Francia queste bambocciate peruviane, crederanno che abbiate calcato la mano. 2.800 sciabole per 600 soldati che non hanno né scarpe né sciacos per ripararsi la testa e che mancano di tutto. Altaus ha continuato per più di 2 ore a canzonare quel che facevano e dicevano gli illustri capi della Repubblica con grande inventiva e allegria, e non potevo fare a meno di ridere con lui. Altaus, voi dovreste dare dei consigli a queste persone. Vedete bene che non hanno idea di che cosa fare nella grave situazione in cui li ha posti la loro ignorante tracotanza. Dare dei consigli? Florida, si vede che non conoscete ancora la mentalità degli abitanti di questo paese. Sono degli sciocchi presuntuosi che credono di avere la coscienza, la scienza infusa. Nei primi anni della mia permanenza in America mi dispiaceva, come dispiace a voi, vederli commettere tanti errori, e facevo rilevare con franchezza che se avessero fatto diversamente le cose sarebbero andate meglio. Sapete che cosa è successo? Questi imbecilli sono diventati miei nemici implacabili, diffidavano di me e mi nascondevano le cose, come hanno fatto con le armi. Se non avessero avuto un bisogno urgente delle mie conoscenze, mi avrebbero cacciato via con ignominia. Dapprima ho sofferto parecchio per questo atteggiamento. Poi ho preso la decisione di non preoccuparmi e di lasciar commettere loro ogni balordaggine, accontentandomi di dileggiarli. Dopo che in Francia avevo appreso il potere del sarcasmo, se usato in modo appropriato e con abilità. Altaus, Quello che dite è allarmante. Simili stravaganze avranno delle conseguenze spiacevoli per gli abitanti di Arequipa. Se Nieto continua a comprare tutto quel ciarpame dai capitani europei, dovrà presto ricorrere a nuove estorsioni che si ripeteranno così all'infinito. Andrà proprio così? L'audace monaco Valdivia sta già preparando un secondo bando e questa volta Don Pio non sfuggirà. Ugarte e Gamio saranno spennati, ma sarà soprattutto il vescovo con la sua famiglia a essere colpito. Signori borghesi, che avete voluto questo governo, stiamo per dimostrarvi quanto costa una repubblica. Nell'animo del barone Althaus regnava l'assolutismo e i risultati che aveva sotto gli occhi non erano tali da indurlo a cambiare opinione politica. Perciò egli continuava allegramente a farsi beffe di questo sistema amministrativo.